Inania. Casting di comparse, di infinite farse. Guerre nel nome del Signore, dal ministero battezzate guerre, subito crociate, attraversano la storia da millenni senza gloria, guerre giuste tutte sante e risolte dalle fosse, sono tornate anche le bosse, contro eserciti bambini e soldati di confine, cieli di piombo di mala sorte, all'ombra nera della morte, usati, sfruttati, presi a calci in faccia, che il mondo guarda come una minaccia. Cari fratelli, adesso basta, facciamo fare grande una figuraccia, alzando forte la nostra voce per ogni bambino che hanno messo in croce. Stop!